Il punto di Stefano Folli. L'immagine dell'Italia a cui vogliamo credere è quella dei lavoratori che con tenacia contrastano la crisi, degli imprenditori che rischiano e si sacrificano per non perdere competitività, di coloro che vanno all'estero per trovare il lavoro che qui non c'è. Ma a questa immagine se ne sovrappone un'altra, ed è la gazzarra delle aule parlamentari. L'indegno spettacolo di Montecitorio inscenato dai grillini nei giorni scorsi e adesso il tentativo di esportare la nuova tendenza addirittura nel Parlamento europeo. La Lega che contesta il Presidente della Repubblica mentre parla a Strasburgo segna un salto di qualità senza precedenti, purtroppo negativo. Questa seconda immagine, che descrive una classe politica inconcludente e rissosa, si sovrappone alla prima e fa molto male all'Italia, perché incoraggia i peggiori stereotipi sul nostro paese. Non solo, lascia supporre che nelle prossime elezioni europee i partiti del tanto peggio tanto meglio possano ottenere un risultato rilevante. Spetta agli altri, a quanti sono ancora capaci, se sono capaci, di mettere in atto un po' di buona politica e impedirlo, dando voce all'Italia che lavora e non si arrende.